Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Un'occhiata all'estratto conto bancario, qualcuno l'avrà già dato, quello dell'ultimo trimestre del 2013. Partiamo da questo per affrontare un nuovo argomento insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ben trovato al presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, tu l'avrai ricevuto, io l'ho ricevuto, insomma abbiamo visto, e tra queste spese fisse, spese mensili, qualcuno avrà notato un aumento non certo leggero. Ah, certamente, ormai le sorprese, Mirko, cominciano a essere veramente le più incredibili, le più diversificate, a cui le famiglie ormai sono abituate a dover far fronte. Da ultimo è stata proprio la sorpresa in questi giorni per chi ha ricevuto l'estratto conto, dove avrà avuto modo di notare tutte quelle che sono le variazioni e i costi chiaramente in più rispetto all'anno precedente per quanto riguarda le commissioni di gestione del conto corrente e tutte quelle operazioni che si possono rischiare di dover effettuare allo sportello o presso anche altre banche. E sono cifre alle quali non possiamo dire di no, perché appunto vengono imposte, quindi alla fine anche quelle continuano a erodere i nostri magari pochi risparmi. Beh, normalmente pensiamo che la gestione di un conto, poi anche in virtù di quelle che sono tutti questi ultimi provvedimenti che il governo ha cercato di attuare per contrastare quello che è un fenomeno come l'evasione, dovrebbe essere quasi gratuito. Invece scopriamo che se da un lato le commissioni aumentano fino a raggiungere il 20% rispetto all'anno precedente e addirittura sono aumentate del 46% rispetto a 3 anni fa, paradossalmente quello che crolla praticamente è il tasso di interesse, dove ormai il tasso di interesse possiamo dire è praticamente uguale, pari a zero. Questo significa che se una persona ha 1000 euro in conto corrente, a fine anno invece di trovarsi avere 1 euro di interesse si trova a pagare oltre 200 euro per la gestione del conto. Quindi certamente non è uno stimolo questo di aprirsi conto, ma sta diventando veramente un costo che anche in questo, sotto questo punto di vista, molte persone stanno valutando se veramente risulta essere conveniente o meno. Ecco, gli interessi una volta erano uno dei motivi per cui si metteva un gruzzoletto in banca, adesso magari si riesce forse a malapena a recuperare il costo dell'inflazione, la rivalutazione, c'è anche questo rischio? Ma sostanzialmente sì, ma ti dirò che facendo un'analisi di quelle che sono le 8 voci più note per le famiglie di cui ciascuno di noi sostanzialmente si trova durante tutto l'anno a dover adoperarsi in un'occasione rispetto a un'altra, come abbiamo detto, il calcolo è venuto fuori ed è un calcolo che è stato fatto da una simulazione addirittura dell'Università Bocconi per il Corriere Economia, quindi non è che sia una fonte non autorevole quella che ha dato questi dati. Risulta, come ho detto, cresciuta del 20%. Tra le 8 voci che sono maggiormente aumentate, per esempio, c'è il pagamento della rata di prestiti o di mutuo, che è arrivata fino a 1,75 euro mensili, come per esempio pagare delle bollette allo sportello, che si potrà arrivare a pagare fino a 3 euro. Queste sono le voci più conosciute. Poi ce ne saranno tante altre che poi il consumatore avrà modo di conoscere quando per esempio si tratta di spedire gli estratti conti o i movimenti a casa, oppure dover effettuare dei bonifici che anche qui diventano quasi improponibili anche per chi ha un conto, perché si va a pagare fino a 6-7 euro. Quindi tutte operazioni che stanno diventando veramente un costo puro e che sembrano avere come unica finalità da parte delle banche quello che insomma continuare a prelevare soldi ai propri clienti e non certamente a stimolare ad aprire un conto presso le loro filiali. E viene ancora una volta da dire: meglio il materasso, almeno lì nessuno ti chiede tasse. Ma a questo punto sì, ne siamo quasi convinti. Certamente non è una cosa di facile attuazione, perché oggi chiunque abbia degli accrediti è difficile pensare che possa ancora andare a fare coda alla posta, come magari per esempio i nostri anziani erano abituati fino a poco tempo fa, ma di cui già il governo Monti, per dare un nome, ha costretto molte persone a dotarsi di un conto corrente per poter avere a credito della pensione, e anche qui fa il piacere alle solite banche. Ma certamente il fatto che la banca dovrebbe essere un'istituzione che dia anche una mano alle famiglie, certamente poi si rivela che, come tutte le istituzioni, hanno quella come unica finalità di strozzare il correntista, quando, ripeto, già la gestione di un conto in Italia rispetto a quello che è un confronto con tutte le principali banche dei principali paesi dell'Europa risulta ben più salato, e quindi già credo che, insomma, i commenti si spengono facilmente. Tra le voci analizzate, hai detto molte sono aumentate di qualche decina di centesimi euro, c'è qualcosa che è rimasto invariato, addirittura magari è calato? Ma per trovare qualcosa che possa rimanere invariato, per esempio, sostanzialmente sono i costi dei bonifici online, dove sostanzialmente si parla di pagare pochi centesimi, e quindi anche qui si arriva comunque a una spesa pressoché invariata. Ma certamente non può essere questa una soluzione, perché costringere, come detto, anche gli anziani a dotarsi di internet e effettuare operazioni online certamente risulta un po' complicato. Ma basta pensare anche al pagamento dei modelli F24 per chi in questo periodo ha dovuto pagare la mini IMU o effettuare o il saldo della TARES. Certamente quando è andato in banca si è reso conto come sostanzialmente i costi per effettuare certi pagamenti stanno diventando significativi, anche quello che è un importo che si deve pagare perché lo decidono i governi, non perché è un fatto di volontà propria. Sarebbe straordinario, ma noi italiani siamo bravissimi su questo, riuscire a pagare le tasse sulle tasse per pagare le tasse. Siamo bravi però in questo, e in questo per fortuna c'è l'Unione Europea che ci controlla e giustamente anche ci multa. Su questo tema torneremo in una prossima occasione. Tra due giorni ancora il tema dei soldi, parleremo dell'usura a partire anche dalla denuncia di Papa Francesco. Grazie intanto all'Adico, al presidente Carlo Garofolini, buon proseguimento. Grazie a te, amico, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.